non fai qualche fortuna buona, dai. E si sistemano tutte le cose. Gali, che Dio ti intenga. Se faccio una bella visita, salgo sulla luna, cazzo, metto una lastra a cazzo di lamiera, cazzo, grossa, 20 centimetri. E tutto sassari, sopra, grande quanto sassari, almeno non lo guardavano più, io. Andava. Insomma, quest'anno la presentò a piovere e non c'è più rimedio, eh. Cappa, cappa, quest'anno, però dovrebbe fare un'estate calda quest'anno, E me la fottuta la palla io del sicuro, cazzo, a me mi sta lasciando il rosso a trovagliare, non è sicuro. Cappa di rocido. Ehi, vabbè, lo so, è la rottura del scatto, Poi sempre per te, va, vento, di tutto e di più. Ma sai cosa è, perché? Che bene o male d'inverno, quando c'è freddo, ti metti un maglione in più, ti puoi tappare tutto l'altro. E di sicuro, allora, sempre di casa, cosa fai? La metti di cucchi. Infatti, dice pure io, è vero. Ah, che quello è vero. Confermo. Ma tu già non hai dei problemi, ma bro. E anche a te fila, c'è la risposta nostra, Su questo, almeno questo già l'hanno fatto. Ma prima non veniva la condizionata, no? Io ho usato anche quelle scienziali a condizionata, pure senza freddi. Capito? Vabbè, adesso giustamente è obbligatoria per legge su questi mezzi così l'aria condizionata. Quindi, ma non ti pensai che 30 un metro quadro ti fossi avere tutta la riaffreccia sta cosa, no? Quando mi fai, cazzo, ma se deve stare attenti la legge. Ah, la puoi regolare come vuoi. Basta metterla, se stai bene, non dico di metterla a congelare, ma la metti intorno ai 20 gradi, e 20 gradi diciamo che non hai caldo, se sta bene, puoi lavorare tranquillo. Mica ci andiamo durante 8 ore e mezzo e scendi, Mario. No, c'è così che c'è ragione. Io me la metto sempre in automatico, capito? Me la metto bene, nel senso che la metto 20, anche 22 gradi anche, come si sta bene, la metto in automatico, quando arriva a quella temperatura si spegne, si riaccende da sola, hai capito? Il climatizzatore non è aria condizionata, meglio ancora. Ma se ti stavo dicendo, sta uscendo tutto truccato. Ma porta dalla televisione, guarda se sta uscendo il truccato. Ehi, sta uscendo spezzettato. Ma come te l'ha pigliato? Così è, fa che confermi. Ega, positivo Mario, sta uscendo male. Spezzettato, confermo con la letto puttolta, Non hai giusto cazzo nulla. Pure da scendere spezzettato. Perché adesso l'ha fatto, Si conferma. Appare positivo. Ma mi ascolti, fa che? Morto è chiaro, posso vedere, morto è chiaro. Ma se io ti credo, vedo l'antenna tua, tutta rugia, è andata a capisciuglia. Parisci un segnale, hai già visto? Tu sei sotto a casa. No, non sono sotto a casa tua, là. Sono la maison. Sì, vabbè, lasciamo vicini, vicini, là. Ehi, a nome di Striscia Notizia, ho visto quegli animaletti, vicini, vicini. Scappa, scappa. Precuso! Avanti il Precuso! Buonasera Bulldozer, ben sentito e cordialità! Buonasera Tornado, ben sentito anche a te, ben entrato e ben scussolato! Compagnia di Falchetto, di Mario Mansell, con Natalino che dice che ha fatto un attimino, sta accendendo il computer, anche se non aveva acceso 2Z, computer! Coso, come cavolo si chiama? È Luca. Luca, il tossico del PC. Buonasera, un controllo, si fa per il radio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Santiago non te lo do perché non te lo posso dare, la radio è 5, perfetto. Riprendo io per salutarti di nuovo, dai Giuseppe, scusami, ma io sono arrivato al mio parcheggio qua. Vi saluto tutti cordialmente, ritenetevi tutti salutati, Natalino, buttaci quel computer, ciao!

sentivo qualche riprendo il mic e... Oppala, per salutare il collega Domenico niente ben entrato dov'è? Cordialità e buon inizio di Tramarco K. Buonasera, guarda che la parola collega è grave, avere un collega oggi a tempi d'oggi, non è tanto facile. K di positivo, Domi, diciamo che non è facile. Che io ne ho c'è il nome, capito collega, ma sono uno più bastardo e l'altro, sicché non faccio comitiva con nessuno, capito? Meglio da solo che mi ha accompagnato, dicevo il proverbio lì. Giusto Mario? Certo, si conferma. Guarda ora come ci stavamo i pesci pesci, Domenico. Ma se le voci le devo giocare a terra, troppo le voci per me. Santa Gatta, andrà bene. Andrà bene bene, sono contento che mi ascolti bene, forte e chiaro. Allora è perché ieri Mario anche la tua modulazione bella forte e sincera, capito? È inutile essere forte come molta gente, come quello che stavo parlando ieri, però no, c'è qualcosa che va radio che non va, capito? Hai capo Mario? Ehi, Gio Maria, sono buonasera, è da poc'anzi che ti sto ascoltando, infatti confermo anch'io che ogni tanto mi ci vale. Comunque, buonasera a tutti, anche a Domenico, e rimango qui ricchissimario, vai, ciao. Ciao, Gio Maria, ben ascoltato, ben sentito, saluto nel QRA e buon QRICCI, ce la risentiamo alle migliori. Riprendi Domenico. Dare una bella soffiatina, una bella pulitina, perché purtroppo all'interno io non ci posso entrare. Volevo essere quello, quel che devo fare, appena schiacci il mic, appena schiacci il mic, poi quella per me non quel casino, e prima che lo schiacci bene, poi esce bene, capito? Perché effetto che fanno tutti i microfoni, quella polverina strana che si mette meglio della mela. D'accordo, ti ringrazio, Domenico. È vero, rifacciamo pigliare l'amico Falchetto, avanti Falchetto. Cappa, salutoni a Gio Maria, Bonfer e X. Niente, e allora dove? Città delle bombarde? Sì, le bombarde stiamo andando anche oggi, sempre come al solito, andiamo verso lì a vedere se ci sono i fuochi d'artificio. Cappa di oggi, Cappa di oggi. E così andrà bene bene da Domì, fa un buon viaggio, vai, un buon rientro, un buon tutto. Avanti collega, collega Giuseppe, vieni avanti, dai, se vuoi anche parte collega, la prendiamo per buona. Domenico sta caricando, è entrato giusto per salutarci, però quando finisce di caricare già entra in radio, dai. Tanto ti accompagneremo almeno fino a Saccaggia, poi io non lo so, tu se dove mi ascolti a me, cappa cappa. Quando c'è molta gente qua. Beh, lo capisco, poi magari qui ci, diciamo così, non colleghi, ma compagni di sventura, perché anche loro lavorano. Niente, magari vi scambiate quattro chiacchiere, così, giusto per un saluto. E giustamente io, anche se arrivo, però sicuramente arrivo piccolo, e gli altri mi sovrappopolano e non mi ascolti più. Kappa, kappa. Dove sei arrivato ora, dove? Forse è entrato in buca. Senz'altro è entrato in buca, dai. Ecco qua. Ecco voi, Gianni Carlo. Ci appassa anche quella, eh? Che cosa passa? Lui è. Che è pittina. Cosa vuoi che passi? Se trovi una bella donzella che te la faccia passare, vedrai che passa. E a trovarla, eh? Balu, come sta andando? Cosa ne so io? Ne più andando. Io, tanto ma come rispondono, quindi cosa ci vado a fare? Ti rispondo. Esatto, ho detto che non ho, assolutamente. Non ti rispondono e quindi non... cosa ci vado a fare? A me dammi il computer in faccia senza nulla. Luca, che deve essere impegnato. E la notte di sono ti dobbiamo indicare, ma io non c'è. Mi è andato a mangiare. Ligato adesso. E via, mi esce in pizza. Mi ha niente che grai la tua pizza. Pagata. Adesso vado a casa e mi ti pongo a letto. Oia. Mi sono fermato 5 minuti e mi ha fumato una sigaretta. Cappa. Anda bene. Dai, io mi metto in moto la macchina e sto andando a casa. Ah, non è io, credevo che eri già a casa tua. No, non le conosci, Baracchino? Sì, adesso proprio la riconosci. Cosa ne sapevo io che eri in macchina? Sono in macchina, sto tornando adesso. Io non sono uscito tutto il giorno, figurati. E come mai? Mancanza di voglia. Ci vuole qualcuno che ti spruni a te. Qualcuno che mi spruni, cosa? Anda bene meta. Ma con cara trovare ti distrai. Come? Allora con cara trovare ti distrai. Ehi, infatti, e ora ci diciamo lì, da voi. Ma chi sa che ti chiamerò subito? Ti sa ancora domande non ne sono uscite. Nel città per commesso c'è il giorno 3, mi sa, il giorno 3, sì. Mi ha scaricato già il nudo, era un po' subito. Senti, commesso sta bene. Ehi, 4 mesi e mi commesso d'ufficio. Sempre lì. Aspetta, Brutacci. Non tagliare, però a casa, ci sentiamo. Già va bene. latte notte la mandano in dubbio, adesso dobbiamo scaldare. Hanno bisogno di scaldare quella palina. Papà, poco fa gli ho dovuto mettere un po' una strozzatina di coso per i contatti al microfono, perché a portante aperta andava tutto giù lo smitter. Ma si scherza? No, no, adesso gliel'ho risolto il problema. Infatti anche poco fa mi dicevano che mentre parlavo mi andava via il coso, la radio. Infatti a portante schiacciata in certi momenti la lancetta dello smitter andava a zero e diventava blu. È strano, come è ma adesso vedo che sta andando bene, perché poco fa quando non c'era nessuno me ne sono andato sul 35 e ho provato piano a muovere il pulsante della portante. Secondo come lo muovevo diventava rosso, se lo muovessi appena di più diventava di nuovo blu. Infatti ho detto, ah, tu sei allora il leccoso. Infatti gli ho dato una spruzzatina leggera, vedo che adesso sta andando bene. E poi c'è un filo di polvere. L'hai aperto questo microfono? Eh sì, già, perché mi mancava la radio ogni tanto, eppure la portante la tenevo bella schiacciata. No, posso andare dentro come se c'è un compressore o qualcosa. E non gli faceva fare bene contatto, capito? Ha fatto bene a spruzzargli quella parete di contatti. Cappa Natali, infatti adesso si sente che sto uscendo bene. Era grande. Sì, gliel'ho proprio beccato in pieno, perché anche ieri mi dicevano, guarda che non sei uscito, parlando, a un certo punto la radio mi si interrompeva, no? Io vedevo qui la lancetta andava a zero e lo smitter diventava di nuovo blu, e infatti diceva, ma se la portante la sto tenendo bella schiacciata, mi sembra strano. Ma ti toglieva la portante quando non faceva contatto, capito? Se ne tornava a zero per quello. Non me l'ha mai fatta. No problemi, c'è tutto, una prima volta c'è sempre, non c'è sta problema. Il male è quando non ci sono i rimedi, ma visto e considerato che una spruzzatina di quel coso benedetto è su che si rulla. Ma la radio è troppo forte la mia, No, qui sta arrivando bene Natalia, è bella, chiara, Santiago sei di lusso e radio lo stesso. Sì, perché se cazzo non è cambiato per me intera questo microfono, se mi ha facciato la prelunga, l'avrei dovuta rimettere a posto. Attento Gianni, fai un passaggio. Cappa, dimmi. Un passaggio più lungo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, va benissimo, 9:20 e super 5, dai, andrà bene. Chi è lui? Cappa. Andrà bene. Il telefono. Come ti trovi? Perché giro vicino, non devo allungare manco il braccio, mi viene molto bene. Cappa. Sai che cosa dovrebbero inventare secondo me? Quelle microfoni che quando parli in automatico parte la portante, mi hai capito? In maniera che uno, anche se bello rilassato in poltrona oppure nel letto, non deve fare fatica a schiacciare nessun pulsante. C'è il rentabile. Sì, già, ce l'ho anch'io, il Vox. Ci sono già. Il Vox, cioè, nella pellicchia, se non inserisci, quando parli, mette portante e parli, capito? Automaticamente. Bello. Non devi toccare niente. Ce l'ho due apparecchio, il Vox. Non lo uso mai, ma c'è. Bene. Tutte le inventano per far su. Però quella comunque è una bella invenzione, perché come dire, non devi stare lì a rabbattarti, no, magari se ti sei un attimino rilassato o su una sedia, sai, una poltrona, gira un attimino la testa verso il coso, il microfono, ti parte in automatico, la portante e via. C'è anche appellata, premi il pedale e parte. Ma io ti ripeto, a me piace molto quello lì a coso, tipo il telefonino, no? Cioè il telefonino, il cordless, è un bel simpatico come microfono e poi è molto pratico se si viene usato in scrivania o addirittura su un comodino andrebbe bene quello. Allora io c'ho appunto dove c'è la stazione, dentro il cassettone. Però è bello perché ti ripeto, è pratico, non hai a lui in mano, hai capito? Schiacci solo un tastino e stai già parlando. Infatti, vabbè, non è che pesa molto, dimmi mille, però l'hai visto. Quale Gianni? L'hai aperto il pacco. Ah sì, positivo, sì, sì, sì, sì, tutto a posto. Uscito di radio, ho visto un colpo di portante, però poi il silenzio. Sa lui, io forse non ho premuto bene, ho detto, l'hai provato al microfono? No, non l'ho provato perché il birichino ce l'ho giù in macchina, e qui su a casa ho quello piccolino, il 100. Ah, gli attacchi sono i suoi, sì. Sì, dovrebbero essere i suoi, visto così a occhio già sono i suoi. E domattina lo provo, anche perché era la mandronia, Gianni, di prendere le chiavi della macchina e rifarmi le scale. E poi lì al buio smontarne tutto. E lo provo direttamente domattina, come mi siedo, facciamo una prova. Ricordati che le regolazioni del microfono sono tutte e due le rotelline tra il 3 e il 4. Okay. La regolazione giusta è quella. Ok, e così li metto, non c'è sta problema. Quello c'è anche il bravo ascolto, lo sa. Ma il microfono? Ehi, quando parli ti ascolti. Se non ti ascolti c'è la spiegazione, c'è... adesso non mi ricordo se è L3 o D3, non mi ricordo, c'è un buchettino dentro il microfono che c'è una ventina piccolina per regolarlo, lo puoi alzare, abbassare, capito? Allora lo puoi registrare come vuoi, mettere più alto, più basso il parascolto. K, ce l'ho qui davanti, VR3. VR3. K. Ok, è solo una cosa in più, perché qui addirittura ce n'è uno vicino a Echo, io te lo leggo come scritto, Echo Delai con la Y greca, e questo che cos'è? Quello lì è Delai, sarebbe l'amplificazione, ma quello non lo toccare mai. Questo lo lascio sempre tra 3 e 4. Sempre, che tutte quelle rotelline, che ci sono dietro, dopo essere 3, 3 e 4, c'è il puntino, lo metti 3, 3 e 4. Quella è la regolazione ottimale, perché ti dà un tantino di eco, ma basso basso, e ti dà la spinta della modulazione, capito? E K. E poi a fianco a questo Echo Delay c'è un VR2 di nuovo con un forellino. Non toccare manco così, devi toccare solo VR3. Per la K di positivo e così sarà fatto. Comunque dietro ci sono le spiegazioni, mi pare, nella scatola. Bisogna che legga attentamente. È un microfono molto vario quello lì. Diciamo che per il prezzo che costa va molto bene, tutto già risentito, come mi fa la modulazione. E K, no, come ce l'ho già avuto perché me l'aveva prestato Pierpaolo, e un microfono così con quell'altro apparecchio, e ti dico che andava veramente bene. Veramente bene. Però puoi usare anche in macchina, se no se decidi di mettertelo anche a casa, quell'apparecchio lì lo usi comunque. E infatti, perché adesso faccio scaldare un pochino il piccolino e poi me lo porto giù in macchina, perché adesso il 100 multi, no, il 48 multi in macchina. Adesso ti faccio un passaggio con il 100 plus, aspettami due secondi. No, con l'Alan 100 plus che ho qui, il mio cicito piccolo, piccolo, piccolo. Dell'Intec. lascia perdere. Di cavo, però non me ne posso nuda, ed è aspetta che l'ho preso, allora è 1, 2, 3, 4 e 5 con la trecina, 5, io ce li ho tutti a 6, quindi. Ma cos'è di quelli spirati? E quindi ecco, ed è anche abbastanza morbida, come, come treccia. Ecco, quelle vanno dalla pochiata, qua 4, ne elimina uno e fatto il gioco. Non lo so di dove sia. Ed è anche buono perché anche quelle, quella farina trasparente lì che si mette alla fine del coso, del, del collegamento già, quel tubicino trasparente. Ah, capo, quello che stavo cercando io. Capo. Vabbè, certo, questo qui è un microfono che rimane fermo, non lo tiri, capito? Quindi non c'è problema. Ma se fosse stato un altro, l'avrebbe troppo atteso. Quello, quello lì, sai che come, come è bello quel microfono lì? Con un cavo un pochino lunghetto, bello di questi, tipo questo dell'S9, mi lungo così. Ma già ci arriva, ma la pena ma già ci arriva. Giusto, giusto, giusto. Ma di questi cavi qui in Sardegna se ne trovano, di questi morbidi, ti faccio un esempio, dai, come l'S9 oppure come il Proxel. Più fino, appena più fino lo vende Fusaro. In Antonio si è comprato l'ultimo, adesso deve riordinare. Oh, qui in Sardegna sempre le cose scadenti troviamo, eh. Ma carino, l'ho piantato con quel cavo. C'è tutta la prunga e il pezzo del cavo, c'è molti usati, perché ne avevo già un pezzo rigido, senza essere spiralato, e l'ho fatta da lì la prunga, per questo qui. Adesso c'è anche un microfono in più, eppure voglio provare il tunnel qua come esce. Spiralato o natalizio, che cosa intendi? A quanti attacchi? Avevano, non ho guardato. Secondo me il microfono devi attaccare, ne ho di solo tre. Io nei 2.48 sono tutte e due a 6. E perché c'è un lockdown? E c'era solo le celle, perché l'altro ha il microfono, quello con il coso, con il rep gain direttamente sul microfono, Natale. E poi quello con lockdown è una cagata perché è anche piccolino come microfono. E intanto ci vogliono due fili in più, e quello è il discorso. Perché il microfono si usa in genere 4, capito? Gli altri sono altri servizi che fa il microfono. Buonasera a tutti. Giuseppe, quello che abbiamo fatto, con quel che non è il suo originale, capito? Proxel? No, quello che con quelle, con quella 48 multi non è il suo originale, quello che abbiamo preso ultimamente, hai capito? E ti hanno dato quello amplificato il microfono. Ah, pappa, pappa, perché ce l'aveva uguale a quello piccolino mio, anche quello là? Forse ce l'aveva come... non so, forse ce l'aveva uguale come quello che c'ha già nel 48 plus che ha lui. Ho capito, perché quello che ho io nelle celle è proprio piccolo, piccolo, piccolo, e soltanto che ha quei due tastini, ma te ne fai e non te ne fai me, perché ormai mi sono preso il vizio di cambiare i canali direttamente dall'apparecchio. No, io, vabbè, Io non tocco nemmeno l'apparecchio, perché io ho con questo apparecchio qui, ho tutte e due le cose, come posso dire, tutte e due le abitudini. Io per esempio con questo apparecchio qui mi sto bello sdraiato, il filo è lungo, in questo 550, e io non faccio altro che toccare solo il microfono, l'apparecchio non lo tocco per cambiare canale. Ho capito, Anto. È bello, D'accordo, d'accordo. Sentibile? Sì, Mario. Buonasera a tutti, ben ascoltati, cambio basso. Sentibile, adesso per Fabiera, buonasera Mario. Certo, mezz'ora di mano, posso te far mangiare. Anche prima maledetto, vai in occhio, vai in età. Poi candideremo una mese, mica devi andare a corso, a Ottana, a Rino. E andato di segno, ma siamo andati a di lui, di me mi accompagno, ho mosso le mani e il tuo bagagliaccio. Era male. Invece da Ottana. Buonasera Mario di nuovo, dai, facciamo il giro completo. Allora io, doppio room, Bombolo e Napalino. Avanti Antonio Bombolo per Mario. Buonasera Mario, sono tutto le ben sentito. Buonasera Antonio, mi hai sentito? Comunque adesso viene qui, io no, c'è Antonio. Doppio room. Natalino e Giuseppe, lo squinternato, ti faccio fare quattro giri di smitta e te lo sbaglio. Dai Giuseppe, facci sognare. Oh Mario, guarda che io ho messo sempre la calamita al rovescio. Mario, però mi dispiace, ma stasera lo smitta non glielo fai girare, perché con l'apparecchio non ce l'ha. Quello che stai usando adesso. Vi siete premuriti! Io già ce l'hai, infatti sono attenuato, anche se arrivi sempre a fondo scala. Ah, che lei, Bumi, questo c'è quando va a vedere io, che se c'è una volta a te, il campionato mi ricorda sempre che sa, guarda! Già ci siamo buoni tutti. Già recudere il capriotto. Io te lo avanti, a me mi basta attaccare pure a me, vedi come ti dici, però non lo faccio. Guarda che io sono liscio, ma cosa sei convinto? Io sono liscio. Perché poi hanno dato che siamo vicini, non è che siamo lontani. Già lo so. Se attacco siamo vicini e non... Cioè, c'è stato un burattone di casa. Sì, addirittura. Mi dica Mario, con questo birichino come le arrivo nelle sue coordinate? Forte e chiaro. Ah, il tappello, è piccolino questo centro, guarda, però è va bene, dai. E così vuole. A volte grande non serve a niente, ma basta anche... Ci sono quelli piccolini, che però... corrono più dei grandi lì. E cazzo di positivo. No, questo qua è... E il primo, diciamo, che ho avuto, questo è stato il mio primo amore, la Lancento Plus. È piccolo, due tattini, il display, AM, FM, e si fa sentire. Non è forte, però l'importante è sentirsi ed esserci. Cappa. C'è perfettamente ragione. No, io ieri ho fatto un passaggio con l'amico W2 perché ogni tanto mi dice qualche giorno vengo di nascosto a casa tua. E cosa vuole fare? Mi vuole sequestrare tutto. Aia! A portarsela a casa sua. E io gli ho detto che non c'è buono. Io lo posso fare. Che piglio lì e vado sotto casa sua e carico tutto. Vero Gianni? Cara, cara. E anche quella che c'era in garage, perché non basta quello che c'è a casa, e anche in garage di Arsenale. Ehi, KK. No, ma siccome io gli ho sentito nominare di un apparato, no, vedrei che quello lì lo piglio a cuore e vedo se riesco a farmelo dare. E di chi ha parlato si tratta? Ehi, se lo dico tra quanto poi me ne lo fate voi. Ehi, ti dico me. No, ma io sono a posto, la verità. E questo che mi arriva adesso, poi sono a posto, come ha detto. E Gianni, che domani è venerdì, su, stanotte non devi fibrilla un pochettino. Su che andiamo? Su che andiamo? Non è vero. Hai sbagliato apparato, Gianni, carta. Lasciami sbagliare. Io più di te riesco a fare. E fai come vuoi. Fai come vuoi. Natalino, perché hai fatto quell'esclamazione? Allora. E in che senso, Mario? Quando ho detto che c'è un apparato che non è che mi impedisci, perché la verità ne ho anche troppo. Però gli ho sentito parlare di un apparato e niente. E vabbè, là, ve lo dico. È la ricetta di mettere dell'elicottero. Ah, ehi, cavolo. E beh, quello lì mi manca. Ma è un qualcosa di militare, no? Ho capito. Vabbè, militare, anche se è roba militare, qui in vetrina la me ci stanno bene, mi. Sì, vabbè, ma frequenze che non puoi utilizzare, capito. Io sono qui che molti banda militare, grande quanto un armadio, ce l'ho. Basta che scende a Cagliari, almeno lo salvo. Sia quello che altra cosa, perché la Maria Antonietta mi faccio dare quello del colonnello. No, ma così è troppo ingombrante. È giusto per metterlo qui in vetrina, non è che sia una cosa per trattare. Sai quanti apparati c'ho qui che non posso trattare? Non è un'idea tu. Ehi, lo so. Ehi, vabbè. Infatti, quando prendo la patente faccio uscendo da lì e mando la sasperate. Capito? Ehi, pappagappa. Quello lì è un altro discorso, Natalie. Io sto parlando qui per vetrina, siccome quando ero là lavorando, sai quanto mi ho trovato? Ho trovato 3 Philips. Che sono sempre frequenze che non puoi trattare, perché a dire la verità non sappiamo manco di che cosa sono, hai capito? Lo può sapere solamente un radioamatore, perché magari gli vede la frequenza e ti dice questo qui è di tale dito o di tale cosa, capito? Solo per quello lì. Ma ne ho, allora sono 3, 4, 4, 5, 5, 6 ne ho di quelli lì. Però 3 sono tutto di una famiglia. E 2 sono portati e poi c'è uno di quelli, diciamo così, da tenere come base o veicolare. Poi ce ne sono altri 2. Che sono lo stesso sempre di quel genere lì, però sono più piccoli, e uno c'ha un canale solo e l'altro ne ha 3 di canali, e quei tre che sono insieme lo stesso è a tre canali. E sono civili, sono portati da nuvola HF civili, qualcosa di vigilanza notturna, quelle cose lì là. Ma li possono buttare per la strada così? Non avrà mica da abriguarsi, quindi non è bellata. No, vedi, è sbagliato, perché un pugno, quando io gli ho fatto vedere, gli ha collegato i fili, perché le batterie che c'erano giustamente non servivano. Allora lui gli ha attaccato i fili, ha provato e mi ha detto che su lui ci sta un ponte. E civili sono, là, qualche ponte civile. Va bene, non polemizziamo il canale, riprendi Gianni. Io ci sento un bel arrabbio, ecco, bastando me stanno già portando. Ma c'è la chianto, non mi pare, ma è l'altro. Stiamo facendo la portante, però in questo momento tu e Mario passate bene, no? Non ci sono problemi. Ma sta anche coso è Giuseppe Natalino, no? Sì. Giuseppe dovrebbe attrezzarsi un po' di più. Natalino zero proprio. Forse Giuseppe, forse sì. Magari lo sento sotto. No, voi due tranquillo, no? Passate voi. No, passiamo, ci andiamo a toccare. Lo facciamo soffrire. Passiamo là. Io come ti sto arrivando, Popolo? Non ti ascolta, no, Giuseppe, se no ti avrebbe risposto. Allora fammi un filichino, datemi un secondo, grazie. Prego. Allora, così parliamo tranquillamente tutti. No, ma se attacca verso 9 lo sento, non ci sono problemi, Mario. Allora, vedi che uno deve arrivare a essere così, cioè o deve cambiare canale, o deve cambiare apparato, ma perché uno deve fare l'efficienza a quel modo non l'ho capito. Ma perché ti ho detto una cosa, è rientrato, perché ancora non l'ho sentito. Ha detto che andava a caricare, ma l'anima di Garriga che è solo volento io, ma è nei miei brutti. Dipende che caricare, se carica le teoritiche, allora dove la mangiare. No, che si è attaccata la pompa alla gubba. Ah, lui sì, allora ci c'è di diretta la cella alla gubba. Ma allora, è andata una svitata. Gappa, gappa. Attenzione Bombolo, attenzione Bombolo, qui è Giuseppe K. Adesso cominciamo a ragionare. Come? No, come un passaggio Giuseppe a vedere se lo passa questo pellegrino. 1, 2, 3, prova per Bombolo, K, qualche innesco, qualche piccolo inneschino, mannaggia, vediamo un pochino se riusciamo a eliminarlo così, vediamo un po'. Che freddo, no, non ci sono problemi, dai. Va bene, lo stesso, ti capisco lo stesso. Gianni passa, cosa un gatto di ghiaccia, Mario, dai, ci sentiamo lo stesso. Bello! E a me non mi sente perché arriva troppo basso il segnale. Parole dolci. Cambia anni. Mi è sembrato Fabietto con Natalino dicendo di attaccare la zuppa. Ok. Bravo, Fabietto, Fabio. Ah, Fabietto, Fabio, va. Fabio non c'è, mi sa che non c'è. Se ha detto a Natalino di attaccare la zuppa, le orecchie di porco sta facendo questo Fabietto, mi sa. Io non mi chiedevo che me l'ha detto, non è Fabio. Solo che ce l'ho sotto la scrivania, non so dove mettermelo. Tocca a collegare tutto un casotto. Poi sono coricato, se no, se l'ho fatto magari di là, avrei usato l'altra, non ce n'è bisogno, non di tutta, ma di quella, non di quella, gli avrei messo un centinaio di ratto e via. Il Vangelo lo sa. non ci, ma anche coso, come si chiama? Giuseppe, non sta per il trippo. No, non ci stanno problemi. Se parla tu non parica niente. E quello è il problema. Pure aspetta, aspetta. Quando fa del tempo che già sono garantendo, a lui non se ne ha niente. E non niente perché sono coricate, sono comprese. E c'è un chilometro di cavo fino là, meglio la notte. E perché sono coricate, è un vaso di segnale, questo più di quel vaso non c'ha, capito? Non so, però mi è venuto un po' negativo qua, hai capito? Per quello che ne ha approfitta. Però, cioè, con Mario problemi non ce ne sono, perché l'ho di fronte, quindi per chi c'ha argomento nel senso. Però con te è proprio che ha niente. Invece la Babbo ha niente a tutti. Però se mi serve l'antenna, credo che vediamo se mi annienta. Chi intende una placca, io dico mi sarebbe in zona nel tratto, quindi chi ce l'ha portato. No, Anto, io sto scendendo con tre vatte. Io sto scendendo con tre vatte. No, va bene già. Sono al minimo, minimo, minimo, minimo. Ce l'ha poi voi di grido a chiesto se vuole che esca con le sette fatte e il faro e rimbaro la canna. Sì, ma cocco, vieni qua. Aspetta un attimo, vieni un attimino. Mi prendi, c'è la roccia lì. Che cappa. Dai via, sono un tenere, arrivi in orario. Dicono che serve l'antenna, se attacchi il grande guai, perché quello lì può uscire con i vati di lui, con 5, con 10, con 15, con 20, a me li crescenti. Infatti, il mio da 130 e 200 mi manda laterale, fatti il conto. Cappa, già va bene. E poi sono dati dalla radio senza attaccare nient'altro. Sono il processore come gli attacchi in lineare da 400 watt. E si conferma. Oppala! Finalmente ci siamo liberati del tormentista. Di positivo, speriamo che il clip del Paolo ora. Appa, lo aspettiamo. Allora salutiamo che siamo un paio di giorni che non lo sentiamo e invece l'abbiamo sentito di dal Rosario. Ava cava. Tu vuoi essere cantata in Libia che di ora pro nobis primus Avemus. Doppio rum. Già ci sono qua. Dimmi una cosa, ma questo antennino del Rosmetro, per che cosa serviva? Rinfrescami un attimo l'idea. Quello lì è il misuratore di campo. Sì, ma non si muove niente qui. Se io sto fermo, che campo deve misurare già? Se tu stacchi i fili, quello senza fili ti misura la stazionale. Come senza fili? Se sta con l'antenna? Con l'antenna? No, l'antenna la devi lasciare. Devi staccare solo i fili e ti misura lo stesso. Sì, ma chiedo scusa, perdona la mia ignoranza, Gianni. I fili di cosa? Il filo dell'antenna e lo spezzone, se tu li stacchi dovrebbe misurare lo stesso, a quanto mi ricordo io, perché quegli apparecchi lì sono anni e anni e anni che non li vedo. E l'ultimo pezzo di magazzino l'hanno dato a me allora? Sicuramente Giuseppe, perché quelli lì non li costruiscono da anni, Natali. Infatti. Per lui lo metti sulla capota della macchina, schiacci la portante e ti misura la stazione manualmente. È un misuratore di campo, misura l'uscita di un elettro. se stacco il cavo dell'antenna del baracchino, se schiaccio la portante misura lo stesso. Sì, però l'antenna deve attaccare diretta al baracchino. Ah, capo, ho capito, sì. Faccio lui solo. Ho capito, dai. Però è carino con questo coso, con questo antennino così, dai. E anch'io comunque, tutti quanti hanno dei pezzi da museo e cose belle, vetrine. Hai visto che volontariamente me ne ho comprato uno anch'io? Ma come funziona? Sono cose che sta malando, non funziona. Ma questo va alla grande già, è un orologio. Ricordati che risale anni addietro. Ecco, ma dai, comunque il proverbio dice che le cose vecchie sono sempre le migliori, dai, adesso non voglio gongolarmi nel mio rosmetrino, ma vedo che sta andando, dai, poi è anche simpatico a vederlo così, dai, bellino anche come colore. Se vuoi te lo puoi fare anche luminoso, non so. E come? Con le lampadine dentro. Cioè, le lampadine dove ci vuole se di fare attacco alla realtà. Sì, cavolo, già ne sta prendendo di cosa questo piccolo alimentatore da 7 ampere già. Figurati se gli metto il coso che mi serve proprio per alimentare questa stazione. Io dico che uscirei anche meglio. E così va un passo, compriamo un alimentatore, Giuseppe. Ma da quanto vuole Gianni questo alimentatore? Quanti ampere vogliono? Guarda, quando te lo compri da 30 ampere ce ne ricari, comunque anche 50 non ci piace, ce ne vuoi da 50 che costa 135 euro, non costa manco molto. Capa, ma io sono sicuro che avendo l'1 da 30 sarei uscito anche meglio, questa è un'impressione mia, No, anche quello basta come alimentatore 12 volt. Solo che il mio consiglio è prenderli più rottabili, perché solitamente quegli apparecchi lì vanno a 13,8. Se sono a 12 volt sono soltanto alimentati. Capito. Avanti, sì, per primo, eh? Quella quando io ho capito che c'è mafia, anzi adesso mi lascia un po' scusa, a me non ho fatto, posso parlare del testo di sinistra, Giuseppe, per il tasto non devo stare con questa cosa abbassata almeno, ho capito, poi faccio così. Hai visto il suo progresso? Chi? Oh, comunque, visto che la portante non ha sbagliato un colpo da quando ho fatto quella storia lì. Ehi, assicurante ha qualche granello di poco. Cappa, no, mi dava fastidio perché mi hanno ripreso un paio di volte dicendomi sei sparito, parlando, no? Però poi vedevo il coso che diventava blu. Infatti ho detto, ma è strano. Portante c'è sempre Giuseppe, ci sarà sempre e morirà sempre. Morirà e vivrà la portante. E così sia. Guarda, aspetta la croce, la portante, vuol dire non ha altro, altro da fare. Chi è entrato, Lucchetto? E Luca, ciao Luca. Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Però se non hanno altro da fare, anche gli occhi se ne possono togliere, mi, senza stare lì a rompere le scatole alla gente che si sta passando una mezz'oretta tranquilla. Ma Giuseppe, se avviene di non conto non ci rompere di bugnalati. Guarda che quello è un gioco. Addirittura. Ah no, e tu cosa ne dici? Io ho un coltello, c'ho un lupine, poi ho un altro, più bellino, a scatto. Io ho quello, e me lo fa qualcosa, no? Vabbè, con quello sei tranquillo che già si diverte, mi. Con la scatto cosa devo prendere? Io c'ho Zambuesa e la patatrice. Io con la scatto l'ho trovato, l'arghiero tanti anni fa. E ce l'ho sempre, è bellino, eh. E funzionava sempre, anzi buio non funzionava, c'era una prifa. Però ho dovuto, si può dire, smontare, sollevare la molla, con una specie di molla dentro. L'ho tirato un po' e adesso funziona. Ma la grande. Sì. Però non ho chiesto la tua a nessuno. Che lavoro, cazzo, cos'è non si gioca un bagno di pugnalato? Mi sembra la voce di Pierpaolo, è possibile. Io comunque la siete di fare, Gloria. Io una volta Giuseppe è capitato proprio un lineare, da 200 watt, ma non l'ho apprezzato lui, si sto usando, tanto non sto usando io. Era una cosa con una persona, un ragazzino, no? Per domani cosa la faccio adesso? Ma è importante, no? Ma lo sapevo, siamo questa persona qua. Oia, quanto l'ho schiattato. Di pochi parlavo, pochi. Cappa Luca, però io dico, ma tanto a dirarsi così poi ci si fa solo sangue cattivo. E secondo me non si risolve niente così, perché poi stai una persona anche secondo come si adira, poi sta anche male, bisogna fare anche attenzione. Ma infatti, quando vedi lui Giuseppe è giù di tanto, oppure si sposti di frequenza, e cavoli a canali. Eppure adesso chi è a giorno d'oggi non c'è Maracchino che ha più canali, ce l'hanno tutti adesso. Prima magari no, io quando ho iniziato un Maracchino con 40 canali, e c'era gente che aveva Maracchino con più canali, e poi piano piano mi sono attrezzato anche io. Ci sei sempre? Parlando in due, non si è capito niente. Io ho iniziato con un baracchino a tre canali, la faiette tre canali portati. Già, la volta che c'è non mi piace, no? E vabbè, è questione di gusto. È troppo pesa, è troppo rimbombante. Perché c'è l'eco, aspetta l'eco troppo l'eco. Giuseppe sta uscendo con la meraviglia. Tattarino, qual è tu la tariffa? tomba. È troppo toccato, sì, già, capito. E niente, piatto. Ma tu stai facendo il dutto, tu c'è una tazzernata sotto, bu. Ciao, ci sentiamo, ciao Mario, posso notte, buon trabacco per domani. Ciao Mario. Avanti buon volo per Mario. Buonanotte Mario, ci risentiamo domani. Ho le prossimine, ciao ciao. Ma ditemi una cosa, ma cosa ci facciamo sul 19 normale? Ma adesso mi senti? Sì, chi sei? stato forse, non so, no, il problema che c'era, se il casino che c'era. Comunque, no, per me non è un problema, per l'altro non lo so. No, perché ti ho sentito dire, Frocio, sei tu, ma non era rivolta a te, capito? Era rivolta a questo bastardo. Forse era un attimo che io stavo provando a entrare. Nulla, mi ho sentito queste parole e ho reagito nello stesso tempo. Comunque non ci sono problemi per me, per l'altro non lo so. No, no, sei capitato, era perché siccome io stavo dicendo ho portato la volata, ma sei talmente vicino che mi hai sentito lo stesso. Anche tu, capito tutto lì, ma non era rivolto a te. Ok, tranquillo, tranquillo. Capo di positivo, riprendete la lampada, ciao a tutti. Ciao, bella uno. Brecco, avanti il brecco. Ciao, sono io, vi devo fare una prova. Vai avanti, vai avanti. 1, 2, 3. Santiago 6 e Radio 4, K. Radio 4, K. Sì, Mazzo, se poi sei di su nelle coordinate che ha detto poco fa Carburo, mi dovreste arrivare a bomba qui. A bomba. Ah, cazzo, dai, va bene, ti fai sentire comunque. Questo è sicuramente arriva a fuoco. Come già, non ho copiato. Ho detto sicuramente alle parti di Abbandesa perché arriva forte qua. K di positivo, dai. Anche qui si sente un Santiago di 6 con lo portatile nelle mie coordinate, non è male, dai. Una radio di 4 è comprensiva. Niente, e poi l'importante è, ripeto, l'importante è sentirci, non è necessario che il coso, l'apparecchio vada a fondo scala. Quando ci si sente tranquilli, ce n'è, basta e avanza. E niente, dai, vediamo un pochino se Bombolo è di nuovo con noi. E avanti a tu. No, già ci sono, già. Oh, Giuseppe, già sono qua. Bene mela, bene mela. E l'amico Falchetto nel mondo dei sogni. Falchetto, se vai copiando Giuseppe, batti un corpo. Tu, manco mezzo. Dai, vai avanti doppio rum. Sì, facciamo entrare l'amico, come cavolo si chiama, non ricordo più. Vabbè, quello il camionista, allora. Avanti Carburo. Cosa mi dice? Dai, scusate voi, io nel caso così no. Andà bene, non ci sta mai problema, ce ne sono tanti di quegli argomenti e di cui parlare, però ne sta passando lì da quelle parti. Sono macchine. Nada? Nulla, nulla. Siamo messi bene. Dice, però ne sta passando, sì, un gatto in questo momento. Ecco, che cane da circo, vai, in queste parti. Alla grande? E cosa c'è Giuseppe? Cosa c'è? Dimmi a me. Monelli, Monelli, non si dicono queste cose. Su che andiamo Antonio, riprenditelo tu il mic. Cos'è quando sento queste cose? Mi fanno solo che piacere. Ah no, Antomi, Anto, gira, gira, gira, gira, poi il discorso va a finire sempre lì. Doppio rum. Doppio rum. E io sono accamaraiato, insomma. E per cosa credi che ti sto chiamando ogni tanto? Se no va a finire che escono le zeta qui dall'apparecchio. Sono stanchino stasera, poi con questa giornata di più già oggi guarda, ne ho ammazzato, tra senti voce, sto dando il fuso, vieni, pantaloni, calce, tutto quanto. Già, figurati io che sono in giro dalle 5 di stamattina, mi sono girato mezzo a Sardegna. Guarda, se ti dico che sto modulando in piedi, tu non mi credi. Ho la sedia qui a fianco a me che se ne sta ridendo, ma sto così bene in piedi. Sono stanco, sì, però se altri 10 minuti me li faccio, perché se vado a coricarmi adesso, guarda, sicuramente domani mattina alle 5 e sono di nuovo in piedi, anche se domani entro alle 8, sicuro che domani mattina alle 5 io sono di nuovo in piedi. No, c'è Sassari. Campa di positivo, domani abbiamo Sassari e circondario. E io ti sei girato di bello. E dici a me? Sì, sì. Ma un giretto vicino, dai. Ho iniziato da Tempio, Volbia, Ardrachena, San Teodoro e poi sono rientrato. Anche tu la signora ti chiama telefonale, figurati, io la macchina è nuova un paio di mesi e sono già, cioè un paio di mesi e siamo già intorno ai 30.000 chilometri. Ciao, sono buono. Da noi invece li cambiamo stesso, perché purtroppo non ci abbiamo notizia fisso, capito? Quindi se no l'avrei voluto fare anche io, ma il falcolino. Cappa, l'importante, guarda, il segreto di tenere la macchina in forma e quando si abitua a quel piede e va che è una meraviglia. Sì, sì, sempre prudenza, la cosa principale. Quella è la cosa primaria, diciamo, dai. E Yogi che fa? No, Yogi lavora su impianti elettrici. Ah, bene, quindi più che Yogi potrebbe essere il Mastro Scintilla. Giusto, come Mastro Scintilla è il nome giusto, che adesso mi sono spento il portatile e purtroppo non lo può rispondere. Vai tranquillo, non ci sta problema, carburo, non ci sta assolutamente problema, figurati, ci mancherebbe altro. E niente, comunque anche quello è un bel mestiere, coso di elettricità e tutte quelle cose lì, devo essere sincero, me la cavo, e mi ha sempre appassionato comunque. Avanti bombolo. Cambio quanti chilometri c'ha? Allora, 3.000 e qualcosa, sono rientrato oggi e ho chiuso il tachigrafo digitale e sono 3.200 e qualcosa. Non sono neanche molti, complessivi. Ma calcola che è un paio di mesi che qui è. Non sono più neanche molti, sono pochi, proprio motore diesel di quel genere, sono pochi. Ma una cosa è se ce l'hai un anno la macchina, una cosa è se ce l'hai due mesi e mezzo, mi hai capito, Anto? Sono tutti quelli che il periodo che ha. Fai il calcolo anche di 3 mesi, no? E fai quanto, allora la macchina lavora 5 giorni alla settimana e sono 5 per, qua sono 20 giorni al mese che gira e sono 60 giorni, e 60 giorni 3.000 chilometri, insomma, non è che siano così pochi. Non sono pochi, no? Comunque per averci 2 mesi ancora è nuovo il cambio. Ha cambiato Salvano, Ioia, ce n'è poco di chilometri. Tu figurati quella l'altra che avevo, che abbiamo fermato, aveva 1 milione di chilometri. Noi abbiamo articolato con 1 milione di chilometri. Stanno duplicando, quello il titolare non lo vuole cambiare. Cappa, magari mangerà anche qualche cosettina d'olio, no? Più che olio, adesso sta consumando acqua. Allora fa fate attenzione, perché quando comincia così è prossimo a sedersi. E avanti il brecco. Scusa, vuoi fare una bomba? K. 1, 2, 3. E guarda, si è aumentato di 2 punticini. Dai, adesso ti do 6 e 2 di Santiago. La radio è sempre quella. Perché sono state modulate? Questa è un'isola con il caldo, non con il freddo. senti quello che ti dice Giuseppe Carburo, il discorso nostro, sai che cos'è? Che noi oramai, una decina di anni a questa parte, ci stavamo abituando agli inverni miti, perché noi qui inverno non ne conosciamo, perché se ghiaccia appena appena campeda, ma senza nevicare mi, dovendo ghiacciare, che basta che ti porti una saliera da casa e il ghiaccio te lo sciogli da solo, noi non andiamo da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte perché non siamo manco attrezzati. Capo, è vero, è vero. Qua di attrezzato c'è solamente la travale, mi sa. Sì, con carta e penna. E con la giugia della sedata che già si sa nuova, soprattutto la signorina, che mi piace tanto le sedere. Figurati tu, ma lascia perdere, dai, anche quelli lì, per carità, più stanno andando, più stiamo andando avanti, più si stanno imbastardendo. Ti conviene il bombolo? Sì, sì. Tu se va avanti, più peggio è. Basta fare attenzione, già. E già ci si riesce anche a superare le cose, dai. E capa di positivo. E doppio rum, sei ancora in pieno delle tue facoltà? Io sono tranquillo ancora. No, parlate, parlate, mi stavano interessando i discorsi, anche io sono un mezzo autista. Tutti siamo in mezzo alla strada, tutti siamo in mezzo alla strada e bisogna arrangiarsi in una maniera o nell'altra. Io ci sono 24, sono 26, 28, 30 anni quasi che ci sono in mezzo al caldo, al freddo, alla polvere e a tutte le malasorti che si trovano in mezzo alla strada. Eppure, cosa volete a dirvi? Si tira avanti lo stesso. Qualche signore in più, allora, della macchinata, dai. Come? Dico, qualche signore in più non della macchinata. In questi anni? 30 anni, vuol dire. Qualche signore della macchinata, no? E me qui in Sardegna, su in continente, qualcosina già l'ho fatta anch'io, dai, è che quando si faceva la linea Sassari Porto Torres, dai, poi facevi Porto Torres Genova, Genova Milano, Milano Trezzano, Trezzano sul Naviglio dico, e poi da Trezzano scendere ad Abbiategrasso e rientrare a Genova, anche quella l'ho fatta un anno con la neve, però non c'è paragone. Cioè lì spazzaneve uno dietro l'altro, cioè sei in un altro mondo lì, eh? Tappa, tappa, continente tutta l'altra musica da qua. Hai fatto quella linea lì? No, io per adesso ho fatto Genova a Brescia, molto probabilmente la prossima settimana, o forse tra due, Genova a Trieste dovrei fare. Ah, bella quella come tratta, c'è da divertirsi. Ho fatto, vabbè, io sono salito di, quando ho fatto Genova a Brescia, sono salito di sabato. Sì, ma va bene, guarda, io sarei stato del parere anche qua di farla pagare il pedaggio sulla 131, però dammi anche i servizi, anzi, invece cosa è qui di pensare, come entri, come esci da Sassari già devi stare, e se fossi, riesci a scartare, 18 le prendi. È vero. E dopo anche l'organizzazione che c'hanno in autostrada, tutta un'altra musica da qua. Sai che io mi sono accorto di essere sbarcato a Porto Torres quando sono sceso dalla rampa della nave. Ha già cominciato a pigliare i batturati a decere a manca. No, veramente, tu te ne ridi, ti sto dicendo che io da Abbiategrasso, quando poi stavo risalendo per Genova, ma ti dico un tappeto, ma ti dico veramente tenute bene, sì, paghi perché è giusto che sia così, però è tutta un'altra cosa, stazioni di servizio attrezzate, autogrilli che acciappavi di tutto. Cacca, è vero, proprio c'è un avviso dalla parte del continente per quanto riguarda il viaggiare, anche sul lavoro, anche se so che sul continente adesso c'è anche crisi anche lì, per adesso. Ah sì, la crisi c'è da tutte le parti, anche se l'hanno ingrandita più di quello che dovrebbe essere, attenzione, perché io parlo anche con gente che lavoro ne ha, ma un bel, però parlo di titolari e non di cose, di dipendenti come posso essere io, ma io parlando con titolari, sentirmi dire, ma è questa crisi dov'è? La crisi è per chi la vuol far diventare crisi, per far parlare, per lavorare di più l'operaio, e stressare di più l'autista, e cercare di darti sempre qualcosina in meno in busta paga, mi hai capito? Sempre per cercare di lucrare il più possibile alle spalle dell'operaio. Però sentirti dire da datori di lavoro, ma la crisi dove? Quindi qualcosa c'è che non quadra. Capa, c'è anche uno che fa il ragnoglio, però già tempo, dai. Sì, ma la crisi è palese che c'è, cioè si vede, si sente, si tocca, ma non è nemmeno così scandalosa come la vogliono far passare i miei carbumi, hai capito? Sì, allora io stavo parlando l'altro giorno con Cusia di un'azienda di autotrasporti nota a Porto Torres, che aveva una decina di anni fa 200 trattori e tutti quanti viaggiavano. Adesso ne ha 60 e 17 dipendenti in figlio perché il lavoro è calato. Questo è proprio un avviso per un'azienda che ha... Cioè, aveva tutti quanti questi dipendenti, dai. Avanti, doppio room. Ecco, aspettavo di lasciare a Paruti. No, di una zona di Porto Torres. Non è lasciare a Paruti, vedete. Ho capito io che stai dicendo, Carburo, non lo dico per correttezza, ma so benissimo di che stai parlando, ma navia un me, quello di cose, di ne incrociavo durante il giorno, più che macchine sue in giro non c'erano. Dai, tra qua ce l'avete, dai. Ma comunque la crisi già c'è ed è evidente, basta andare a trovare la gola di portatore e si vede gli operai che dormono lì poveracci protestando, hanno messo le croci nel giardino e poi c'è gente della famiglia. Beh, nella intervistata uno che si doveva sposare c'è che è andato tutto col tramonte perché purtroppo ha perso il lavoro, lo può fare più. Generazione a LED, ma io dico ma prenditi la roba da mangiare prima cazzo, e poi la televisione a tubo. Io ad esempio non mi vergogno a dirti che c'è la tubo catodico ancora la televisione, ma io ti posso dire lunga vita la mia televisione così a tubo catodico, anche di Dacca non me ne affutti nulla. Perché non ce l'ho, c'è una Sony che si vede un bel verde anche stereo, figurati se la mia è una Inuit sottomarca, ecco, quando l'accendi, guarda, gli dai il compito di telecomando e si vede che è una cartolina. Quindi di fare spese pazze come ne stanno facendo molti. Con la televisione buona, amici Gianni, prendono o la danno proprio perché devono stare al passo coi tempi. Ma vaffanculo, guarda la televisione al plasma, o come Palla ho detto, al LED, dice che è l'ultimo ritrovato, no? Ma cosa me ne frega, cazzo, della televisione quando ce l'ho? Io ne ho una LCD che ho fatto 2 punti da RAES, e la frassone che è tipo cattolico come dici tu, è un televisore bello stereo, dai, si vede benissimo, sembra una cartolina da RAES. Va benissimo, guarda, la mia si dura altri 20 anni, guarda, gli ci metto un chiodo a fianco. Vabbè, che adesso non confermo anche aggiustare, ma se no non confermo buttarle in fianco. Ah, ma come tutte le cose, anche i telefonini. Adesso io ne ho comprato uno, quello che ho io, Miccia, l'hai visto il telefonino? 34 euro ho pagato. Scusate. Avanti. Nulla, vi volevo salutare perché domani si lavora, quindi nulla, volevo rientrare. Salutino a tutti, ci sentiamo alle 13.000. Ciao, ciao. Ciao, Carbolo, buonanotte. Avanti. Ciao, Carbo, buonanotte e buon inizio di trabacco per domani, dai. E ce la riascoltiamo quando volete voi. Noi oggi così siamo sul 19 perché avevamo il portantista, però quando volete entrare siete sempre ben accetti sul 21, dai, ce la sentiamo quando volete voi. Ciao a te e all'amico tuo Yogi. Ciao, grazie. Avanti bombolo per i saluti a Carburo. Che c'è anche cosa, come si chiama? Ma io non mi ricordo questi nomi, adesso non mi prendo quello che ha portato, non mi ricordo come si chiamava. Ho trovato per i saluti, comunque chiudi tutto e ritirami anche la stazione.